Nel secondo anno del suo regno, Nabucodonosor sognò. Il suo animo rimase turbato e il sonno l'abbandonò. Il re dette ordine di convocare i maghi, gli indovini, gli incantatori e i caldei, perché richiamassero alla memoria del re il suo sogno. Al loro arrivo si presentarono alla presenza del re. Il re disse loro: «Ho fatto un sogno e il mio spirito è turbato finché non conoscerò il sogno». I caldei risposero al re: «O re, vivi in eterno, narra il sogno ai tuoi servi e noi daremo l'interpretazione». Il re rispose ai caldei: «La mia decisione è manifesta. Se non mi farete conoscere il sogno e il suo significato, sarete fatti a pezzi e le vostre case saranno ridotte a un cumulo di rovine. Se invece indicherete il sogno e il suo significato, riceverete da me doni, regali e molto onore. Perciò indicatemi il sogno e il suo significato». Essi insistettero di nuovo: «Il re dica il sogno ai suoi servi e noi daremo la sua interpretazione». Ma il re rispose: «Io vedo bene che voi cercate di guadagnar tempo, perché vedete che il mio decreto è pronunziato, che se voi non mi fate conoscere il sogno, la vostra intenzione comune è di inventare discorsi falsi e funesti davanti a me, finché il tempo passi. Ditemi dunque il sogno, e io saprò che mi potete dare anche la sua interpretazione». I caldei risposero al re e dissero: «Non c'è uomo sopra la terra che possa manifestare ciò che il re ordina. Perciò mai nessun re, quantunque grande e potente, domandò una cosa simile a nessun mago o indovino o caldeo. La cosa che il re domanda è difficile e non c'è nessuno che la possa manifestare al re se non gli dei, la cui dimora non è fra gli uomini». Allora il re si irritò e si adirò violentemente e ordinò di sterminare tutti i sapienti di Babilonia. Quando fu emanato il decreto di uccidere i sapienti, si cercava di uccidere Daniele e i suoi compagni. Allora Daniele si rivolse con parole sagge e prudenti ad Arioch, capo delle guardie del re, che era uscito per uccidere i sapienti di Babilonia. Egli domandò ad Arioch, comandante del re: «Perché un decreto così severo da parte del re?» Allora Arioch palesò la cosa a Daniele, e Daniele entrò dal re per chiedere che gli concedesse uno spazio di tempo, ed egli avrebbe dato al re l'interpretazione. Poi Daniele andò a casa sua ed informò i suoi compagni Anania, Misaele e Azaria della cosa, perché implorassero misericordia dal Dio del cielo intorno a questo mistero, sicché non venissero messi a morte Daniele e i suoi compagni, insieme agli altri sapienti di Babilonia. Allora a Daniele, in una visione notturna, fu rivelato il mistero. Perciò Daniele benedì il Dio del cielo e disse: «Sia benedetto il nome di Dio di secolo in secolo, perché sua è la sapienza e la forza. È lui che muta tempi e stagioni, che atterra e fa risorgere i re, che dona la sapienza ai sapienti e la scienza a coloro che sanno. È lui che svela le cose nascoste e segrete, conosce ciò che è nelle tenebre, e la luce dimora con lui. A te, Dio dei miei padri, rendo grazie e lode, che sapienza e forza mi hai dato, e mi fai conoscere ciò che ti abbiamo chiesto, facendoci conoscere la cosa del re». Quindi Daniele andò da Arioch, che il re aveva incaricato di uccidere i sapienti di Babilonia, e gli disse: «Non uccidere i sapienti di Babilonia, conducimi dal re e darò al re l'interpretazione». Arioch introdusse in fretta Daniele dal re e così gli disse: «Ho trovato un tale tra i deportati di Giuda che farà conoscere al re l'interpretazione». Il re domandò a Daniele, il cui nome era Baltazar: «Sei tu capace di farmi conoscere il sogno che ho avuto e il suo significato?» Daniele rispose al re: «Il mistero che il re domanda non possono farlo conoscere al re sapienti, indovini, maghi, astrologi, ma c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri e fa conoscere al re Nabucodonosor che cosa avverrà alla fine dei giorni. Il tuo sogno e la visione della tua mente mentre eri sopra il tuo letto è questa, o re, i pensieri che ti assillarono mentre eri sopra il tuo letto riguardano il futuro, e colui che rivela i misteri ti fa conoscere ciò che sarà. A me, poi, è stato rivelato questo mistero non perché ho più sapienza di tutti gli altri viventi, ma perché sia data al re l'interpretazione e perché tu comprenda i pensieri del tuo cuore. Tu, o re, hai avuto una visione. Ecco, una statua. Quella statua era grandiosa e il suo splendore era straordinario. Essa stava davanti a te e il suo aspetto era terribile. La statua aveva la testa d'oro puro, il petto e le braccia d'argento, il ventre e le cosce di bronzo, le sue gambe erano di ferro e i suoi piedi erano parte di ferro e parte d'argilla. Tu stavi guardando quando si staccò dalla montagna una pietra senza l'intervento di mani. Colpì la statua sui suoi piedi, che erano di ferro e di argilla, e li frantumò. Allora si infransero in un istante ferro, argilla, bronzo, argento e oro, e diventarono come pula nelle aie durante l'estate. Il vento li portò via, e di loro non si trovò più nessuna traccia. Invece, la pietra che aveva infranto la statua diventò una grande montagna che riempì tutta la terra. Questo il sogno. Il suo significato lo spiegheremo davanti al re. Tu, o re, sei il re dei re, a cui il re del cielo ha dato regno, potenza, forza e gloria. Dovunque essi abitino, uomini, animali dei campi e uccelli del cielo li ha messi in mano tua e ti ha concesso il dominio sopra tutti costoro. Tu sei la testa d'oro. Dopo di te sorgerà un altro regno inferiore al tuo, e in seguito un terzo regno di bronzo che dominerà su tutta la terra. Un quarto regno sarà solido come il ferro, perché il ferro infrange e distrugge tutto, e come il ferro che distrugge, li infrangerà e distruggerà tutti. Come tu hai visto, i piedi e le dita erano in parte di argilla da vasaio e in parte di ferro. Ciò significa che sarà un regno composto, in lui ci sarà la solidità del ferro con argilla molle. Se le dita dei suoi piedi erano in parte di ferro e in parte di argilla, significa che una parte del regno sarà solida e parte sarà fragile. Il fatto che il ferro sia mescolato con l'argilla molle significa che le due parti si congiungeranno per semenza umana, ma non legheranno tra di loro, come il ferro non lega con l'argilla. Ai giorni di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà distrutto in eterno, e il suo potere non sarà dato ad un altro popolo. Esso infrangerà e distruggerà tutti quei regni, ma esso rimarrà in eterno. Perciò, quanto al fatto che tu hai visto che dalla montagna si staccava una pietra senza mano d'uomo e infrangeva ferro, bronzo, argilla, argento e oro, il Dio grande fa conoscere al re quello che avverrà dopo di ciò. Il sogno è veritiero e la sua interpretazione è degna di fede. Allora il re Nabucodonosor si prostrò con la faccia a terra e adorò Daniele. Quindi ordinò che gli si offrissero un'oblazione e sacrifici di soave odore. Poi il re disse a Daniele: «Veramente il vostro Dio è il Dio degli dèi, il Signore dei re e il rivelatore dei misteri, perché tu hai potuto svelare questo mistero». Allora il re elevò di rango Daniele e gli fece molti e grandi doni. Quindi lo costituì governatore di tutta la provincia di Babilonia e capo supremo di tutti i sapienti di Babilonia. Daniele chiese al re di preporre all'amministrazione della provincia di Babilonia Sadrach, Mesach e Abdenego. Daniele, invece, rimase alla reggia del re.